Gli speciali di GR24. Bentrovati allo speciale Donne e Lavoro, un equilibrio possibile. Allora, vediamo che cosa si può fare in Italia. Si parla di non solo di un tetto di cristallo, ma di un labirinto di cristallo. Ci sono le consigliere di parità che svolgono un ruolo di primaria importanza per la promozione dell'occupazione femminile, per la prevenzione e la lotta contro la discriminazione nell'accesso, nella formazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro. Ci sono dei dettagli, funzioni e compiti stabiliti dal decreto legislativo 196 del 2000, sono nominate dal Ministero del Lavoro e operano in ogni regione e provincia attraverso un ufficio autonomo che funziona da sportello pubblico ci sono appunto dei consigli e delle indicazioni utili che possono arrivare anche da queste figure. C'è appunto un importante contributo di Alessandra Servidori che può darci alcuni consigli proprio sul bilanciamento vita e lavoro, è componente del comitato consultivo pari opportunità della Commissione Europea. Sentiamo. Il bilanciamento vita-lavoro in Italia è ancora molto arretrato rispetto intanto all'utilizzo del part-time, perché noi purtroppo abbiamo un part-time molto limitato e noi siamo intorno al 12% e comunque invece in Europa siamo oltre il 17% dell'utilizzo del part-time, quindi già questo è uno strumento, il part-time comunque fondamentale e soprattutto se è reversibile, quindi puoi passare dal full time al part time, dal part time al full time e viceversa. Questo è molto importante. Rispetto invece al appunto il bilanciamento familiare abbiamo ancora dei dati veramente disarmanti, nel senso che sono sempre le donne che si occupano dei bambini, dei propri anziani, i maschi molto poco. Sul congedo parentale siamo addirittura a livelli ridicoli, perché non viene usato il congedo parentale da parte dei maschi perché c'è ancora una cultura perché perseguita l'uomo, il quale, il compagno giovane, io ne ho visti tantissimi di ragazzi giovani sui luoghi di lavoro, che chiedono per aiutare la propria compagna il congedo parentale e vengono derisi addirittura dai colleghi. Quindi siamo ancora una cultura profondamente arretrata. Allora, Laura Laposta, possiamo anche dare qualche indicazione su questo labirinto di cristallo, così come viene denominato, che per le donne è un limite? Sì, questo termine è entrato nel linguaggio comune di ricercatori l'anno scorso dopo un articolo scientifico pubblicato sull'Harvard Business Review. In realtà quello che le ricercatrici hanno constatato è che più che di un tetto di cristallo oltre il quale non si sale ma fino al quale si sale, in realtà le donne poi negli uffici tendono a perdersi in labirinti di cristallo in cui non trovano proprio la strada neanche per cominciare una carriera. E certo, ma oltre queste indicazioni, diciamo, tecniche, questi limiti, noi abbiamo voluto proprio sentire le voci sul campo delle donne che operano in azienda. Ci sono ad aspettarci tre testimonianze eccellenti, ma vogliamo prima di tutto dare qualche consiglio per tutte sull'opportunità in rete di trovare informazioni sul lavoro, sulla conciliazione tra vita e lavoro. Per esempio, un ufficiale, l'Osservatorio per l'imprenditoria femminile, istituito nel febbraio 97 con decreto del Ministro delle Pari Opportunità, e verifica che leggi, iniziative centrali e locali per la creazione e lo sviluppo di impresa rispettino le condizioni di pari opportunità. Si rivolge anche direttamente alle donne l'Osservatore, fornendo consulenza e orientamento per tutte le fasi della creazione di impresa attraverso una rete di sportelli. Il sito è www.osservatoriodonna.it. Laura Laposta, caporedattore del Sole 24 Ore, è qui con noi per segnalarci altri siti che possono essere utili alle donne. Quali sono? Ma innanzitutto da tenere sempre sott'occhio, secondo me, il canale Job 24 sul sito del Sole 24 Ore, ottimamente organizzato da Rosanna Santonocito, dove si discute di nuove opportunità che si aprono e degli ultimi trend del mercato del lavoro. E poi è ancora aperto il sito www.webalfemminile.it, creato dall'Associazione Futuro al Femminile, con tanti canali, di cui uno dedicato proprio al lavoro, che scattano un'istantanea interessante del mondo del lavoro e della donna e della sua vita personale, e con tante indicazioni anche che possono far riflettere. Ecco, ci sono ad aspettarci, come dicevamo, le testimonianze. Innanzitutto abbiamo intervistato Martina Pareschi, Human Capital Management Services Leader di IBM Italia, che ci spiega come bilancia lei vita e lavoro. Di sicuro ci sono degli interrogativi che sono sempre più presenti, perché quelle che sono le dinamiche del mondo lavorativo di oggi, che magari un tempo semplicemente con la tenacia e con il carattere si potevano cercare di reggere, e ora sono diventati tali, anche perché la giornata di 24 ore non basta più, anche perché le call del mattino si fanno con gli indiani e la sera si fanno con gli americani, e ci sono queste nuove generazioni che vanno a una velocità impressionante, e quello che è il know-how che viene prodotto e che si dovrebbe poter leggere è talmente vasto che a un certo punto arriva un punto di ansia, per cui bisogna rompere il meccanismo e provare a concentrarsi sulle cose importanti, che è di sicuro una delle cose più difficili in questa folla di informazioni e di pressioni, riuscire a far lavorare bene, diciamo, l'azienda e l'organizzazione, quindi puntare sui talenti, quindi puntare anche sugli altri. E soltanto ridistribuendo le energie, le cose da fare e anche, diciamo, le idee, credo che si possa riuscire a fare un passo in più, altrimenti non diventa più neppure una questione di bilanciamento personale, ma diventa proprio un discorso di non riuscire ad arrivare in fondo alle cose. Un'altra testimonianza che ci può essere utile è quella di Giorgina Gallo, che è amministratore delegato dell'Oreal. Ci va una bella organizzazione, quindi bisogna avere già, le donne in questo sono abbastanza capaci perché riescono a gestire cose contemporaneamente. Bisogna organizzare la settimana, bisogna organizzare il periodo insieme, questo indipendentemente un po' dagli aiuti che si possano avere. E poi, come ho detto, quando si finisce il lavoro e si va a casa, cercare di minimizzare tutti i problemi che quando invece normalmente si vive a casa sembrano grandissimi. Quindi bisogna scegliere le discussioni da fare, scegliere le priorità di quel tempo e abbandonare, quindi rinunciare a tanti perfezionismi a cui la donna normalmente è abituata o per carattere così, perché non c'è tempo. Ma non ci fermiamo qui, c'è ancora una testimonianza ed è quella di Elena David, amministratore delegato di un hotel. È una ricetta che si chiama organizzazione, purtroppo è una delle discipline che impariamo subito quando dobbiamo mixare le due componenti della nostra vita, che sono il lavoro e la famiglia. Poi per alcune è più naturale, per altre meno. Poi l'organizzazione è anche quella personale, no? C'è chi è organizzato nel disordine, chi nell'ordine. Ordine, ma fondamentalmente bisogna dare ritmo a tutte le componenti della propria vita, comprese se stessi, perché poi non c'è soltanto la famiglia, come dedicarsi al resto dei componenti, figli, marito, ma c'è anche quello che è il tempo per se stesse, no? per essere donne fino in fondo. Come abbiamo sentito, conciliare lavoro e vita e lavoro e famiglia, soprattutto quando si hanno dei figli piccoli, può essere un problema. Gli asili nido sono ancora pochi, le rette non sempre alla portata di tutte le tasche. Inoltre la maternità è ancora un grosso ostacolo all'occupazione femminile. Ci sono leggi che si occupano della donna come madre, della donna come lavoratrice, della donna come imprenditrice. E proprio sul fronte delle leggi un'importantissima novità. Si sta finalmente sbloccando il decreto sulla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro con un fondo di 40 milioni di euro. E c'è il lancio delle tate di condominio, figure chiave per il lavoro femminile. Sentiamo Isabella Rauti del Ministero delle Pari Opportunità. La misura, diciamo, quella che poi ha avuto, come posso dire, maggiore ricaduta immediata pubblicitaria, quella delle cosiddette Tagesmutter. Tradotto significa madre di giorno, ovvero sia l'idea di creare degli asili nido condominiali con un numero limitato di bambini, massimo o 5 o 6, con una madre di giorno, appunto, che tiene i bambini in una struttura che naturalmente deve avere all'interno di un condominio e che si offre ai bambini che vivono e che sono nati naturalmente nei condomini vicini, che è una struttura attrezzata con tutte le esigenze del caso, e questa mamma di giorno tiene i bambini fino a 6, dicevamo, durante appunto sia l'orario che viene stabilito, ma anche in giorni tradizionalmente non lavorativi, quali il sabato e la domenica, sempre questo per andare incontro alle esigenze presenza delle madri lavoratrici, che sono lavori sempre più, come posso dire, flessibili, quindi non più con l'orario tradizionale, non più secondo i giorni tradizionali. Accanto alle leggi però ci sono dei consigli che Laura Laposta ci può elencare, perché appunto sono utili non solo per le donne ma per chi è portavoce delle donne. Ma sì, bisogna assolutamente fare pressioni sul governo per agire sui servizi sociali. Abbiamo sentito da Isabella Rauti che sta per sbloccarsi il lungamente atteso piano di conciliazione tempi di vita e di lavoro con 40 milioni di euro di dotazione iniziale. Ma anche bisogna chiedere alle aziende di essere valutate a obiettivi raggiunti, non per il numero delle ore seduti davanti al computer. Ecco, quindi anche un modo di vedere il lavoro diverso, attraverso, se si vuole, gli occhi di una donna, ma soprattutto vedere il lavoro come efficacia, come progetto. E questi consigli sono utili per guardare al futuro. Grazie a Laura Laposta, caporedattore del Sole 24 Ore, per i preziosi consigli e indicazioni. Grazie a tutti voi per l'ascolto di questo speciale Donne e Lavoro, un equilibrio possibile, e un saluto.